Noi in effetti abbiamo un quantum di controlli o comunque di ispezioni, accessi, visite, eccetera, sulle imprese, assolutamente incredibile, eccessivo, dove il costo è costituito dalla corvée, il tempo che perdi, lo stress che prendi, l'eccesso di potere che dai e di conseguenza anche le occasioni di corruzione. O comunque sia, è un tipo di meccanismo di non di pressione ma di oppressione fiscale che dobbiamo interrompere. Allora, la proposta che uno potrebbe fare, ma deve essere equilibrata perché alcune cose non possono essere del tipo la 626, lì ci sono delle cose che magari vanno cambiate, una volta mi sono permesso di dirle, è venuto giù tutto un caos, per cui, però a livello di artigiano magari alcune cose, a livello di altiforno devi magari intensificare, non lo so, però esclusi settori sensibili come quelli della sicurezza sul lavoro, molti altri sono settori su cui potremmo immaginare un qualche tipo di concentrazione, e cioè dire trovare un criterio che salve le esigenze erariali, salve le esigenze del controllo erariale, tuttavia riduca questo continuo meccanismo di frequentazione delle imprese, per cui ne va via uno, dopo una settimana arrivano i vigili urbani, e vanno via i vigili urbani, arrivano altri ispettori e poi altri ancora. È un'idea a cui un po' abbiamo cominciato a lavorare, però se dal Parlamento, se in Parlamento emergono idee e proposte su questo, sono benvenute. Fermo, io credo, il discorso della sicurezza al lavoro.